si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Una buona giornata a tutti voi ascoltatori, sono le 8:32 minuti e una buona giornata a te Carlo che sei in collegamento, vero? Sì signori, buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Vi ricordo che oggi si concorre per indovinare il personaggio della settimana e come sempre la vostra prenotazione per rispondere va fatta all'824 00 24. Tra pochissimo diamo il primo indizio per indovinare chi è secondo voi, più che altro secondo noi, il personaggio della settimana. Uomo, donna, avvenimento, cosa, insomma, potete dire un po' tutto quello che vi viene in mente. L'importante è che abbiate una giustificazione poi per questo, che sappiate spiegarci perché avete scelto quel personaggio e non un altro. E poi c'è sempre il 349 e deve avere una notizia legata a sé avvenuta in questa settimana, perché appunto come ricordava Laura ve la chiediamo, il motivo per cui avete fatto quel nome o quella persona ve lo chiediamo. Esattamente, bravo Carlo che l'hai precisato, deve essere legato alla settimana. E poi c'è sempre il 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, volendo anche telegram. Io cerco di tenere sott'occhio tutto e Carlo ovviamente mi darà manforte. Che cosa ci consigli questa settimana, Carlo? Cosa ti ha intrattenuto? Allora, il tempo libero è in questo periodo è molto difficile, perché ho la sensazione che tocca ritagliarselo, tocca proprio chiamarlo tempo libero, pausa, nominarlo tempo un tempo mio, perché non basta l'evidenza di essere in casa o sdraiati sul divano, in quanto in casa ci siamo bene o male sempre, tutti, ogni giorno. Ma anche il tempo libero non è quello di una volta. Io personalmente ci sono giorni in cui leggo tranquillamente 500 pagine e altri in cui dopo 5 righe mi viene da vomitare, la testa passa ad altro, iniziano pensieri cupi, leggere mi sembra la cosa più inutile del mondo. Ecco, in quei casi io mi trovo bene con i podcast, oppure anche con gli audiolibri. Se non l'avete mai ascoltato, per esempio c'è Cecità di Saramago, letto da Sergio Rubini, di Emons Audiolibri, che è davvero splendido e sequestrante, direi. Inoltre il tema è noto e contiguo con la pandemia, infatti il libro che è stato pubblicato da Feltrinelli nel 1995 è da settimane in classifica fra i più venduti in Italia, sia il cartaceo sia questo audiolibro. Tra i podcast invece ho scoperto Morgana, che non è una novità, ma è un podcast stupendo di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, disponibile grazie a storielibere.fm. Sono delle puntate monografiche in cui si raccontano vite di donne di talento, fuori dagli schemi, che poi spesso sono gli schemi maschili. Donne controcorrente, pericolose, esagerate, per fare degli esempi Moana Pozzi, Caterina da Siena, Margaret Atwood, che è l'autrice del racconto dell'ancella, Madonna, appunto, una specie di campionario di streghe moderne, donne scomode, eretiche, che non hanno paura di mettersi in gioco. È un ascolto stupendo. Io, siccome sono uno stupido uomo, ho iniziato dalla puntata su Stephen King, perché ho trovato stupenda la giustificazione della sua unica presenza maschile fra un campionario di sole donne, ovvero Stephen King, per come ha saputo raccontare e rappresentare i suoi personaggi femminili in ogni suo romanzo. Stephen King, come dice la Murgia, è un morgano. Ho tanto amato la voce della Murgia che nottetempo mi sussurra nelle cuffie tutto ciò che sa e ha capito del maestro dell'horror, che ieri pomeriggio ho ricominciato a leggere Misery di Stephen King. Il libro si intitola Misery, il film, come tutti immagino sappiate, Misery non deve morire. Quindi vedete, si fa una sosta sull'isola dei podcast per poi tornare sulla terraferma dei libri in attesa della giornata da 500 pagine. Eh beh, è bello, no? Perché poi si passa da uno strumento all'altro, se ci si movimenta un po' la giornata poi alla fine, no Carlo? Che è poi anche quello di cui abbiamo bisogno. Vero, verissimo. E poi appunto l'ascolto è una cosa diversa. Ovviamente c'è anche il nostro di podcast, ma non posso essere io a consigliarlo, però sappiamo che ci sono tante persone che amano anche ascoltare le trasmissioni in replica, in podcast. Anche quello è un modo anche quello spacchetta un po' queste giornate in cui non si capisce bene più che ore sono e che momento è. Uno sente un podcast che di solito è abituato magari a sentire la trasmissione a un certo orario, invece si rifà il palinsesto un po' come gli fa comodo. Esattamente. E poi, come dicevi, prego. Volevo aggiungere una cosa, possiamo chiedere ai nostri ascoltatori, sempre all'800240024, anche di chiamarci per dirci che cosa faranno dopo, che è stata in realtà la nostra domanda di ieri, ma direi che può valere anche per oggi, perché ho sentito poi persone, ho letto sms di persone che hanno detto anch'io volevo dire la mia, volevo dire che cosa faccio appena finisce questa cosa. Penso che possiamo dare la possibilità anche oggi, ovviamente, se sei d'accordo. Ma certamente che sono d'accordo, sicuramente, anzi ci farà molto piacere vedere, e magari troviamo anche qualche bella proposta per noi. Esatto. Ieri abbiamo collezionato gite in montagna, gite al mare, io ho detto andrò al fiume, insomma ognuno c'ha un po', direi tutti all'aria aperta, ma questo è abbastanza scontato, no? Che sia così, che tutti vogliano uscire di casa dopo tanto tempo trascorso tra le pareti domestiche. Tra le cose che si possono sicuramente fare in questi giorni sono i giochi da tavolo, no? Giochi in scatola, chi ne ha e chi ne può magari inventare. Allora io vi presento il nostro prossimo ospite, che è Alberto Zaccagni da Pantelleria Isola, non solo bella ma felice anche perché là ancora non è arrivato il coronavirus e speriamo non arrivi mai. Buongiorno Alberto. Buongiorno Laura. Allora, tu sei un abitante di Pantelleria e un ideatore, tra l'altro, di giochi da tavolo, no? Quindi, insomma, ci puoi un po' dire là come si vive, come si sta e magari qualche suggerimento per noi che stiamo a casa. Sì, certo, io sono fiorentino, ma mi sono trapiantato qui a Pantelleria da 30 anni e tra le varie attività, appunto, mi sono messo a inventare giochi da tavolo già da tempo. Qui a Pantelleria, diciamo, la situazione è buona perché non abbiamo nessun contagio, ma subiamo tutte quante le privazioni di tutto il resto degli italiani. Cioè anche voi siete in quarantena, quindi. Anche noi siamo in quarantena, siamo chiusi nelle case, non possiamo lavorare, non possiamo fare nulla, proprio come tutto il resto d'Italia, anche se qui non, fortunatamente non abbiamo nessun contagio ancora. Nelle case, che poi sono dei bellissimi da muso ogni tanto. Sì. Però. Sì, alcuni sono bellissimi da muso, abbiamo anche i giardini, ma non tutti. Chi vive nel paese chiaramente deve subire tutte le impedimenti che questo momento ci obbliga, giustamente. Tu hai, tra l'altro, con intorno Lampedusa deve essere molto più difficile. No, cioè molto difficile, qui il problema sono i collegamenti, perché chiaramente ci sentiamo un po' emarginalizzati rispetto al resto d'Italia e perciò tutto quanto arriva da fuori. E anche le persone, il problema è della mobilità, il problema è, insomma, sono altri. La natura ci aiuta molto, chiaramente, però abbiamo il terrore che se dovesse succedere qualcosa qui siamo veramente all'estremo, ecco. Ma per una questione anche, certo, di... No, dicevo che mi sembrava più difficile, ho detto Lampedusa, ovviamente intendevo Pantelleria, chiedo scusa, dicevo deve essere anche più difficile, perché uno magari c'è intorno Milano, ma se intorno è a Pantelleria e non può uscire di casa, penso che uno soffre, sì, di più. Sì, questo è un paradosso, perché io nella mia fidanza vedo il mare e chiaramente non ci posso neanche arrivare a toccarlo. Però ormai siamo parte tutti di una comunità mondiale e questo qui è la situazione, ecco. Alberto, tu mi raccontavi che durante la tua vita sei dovuto restare chiuso in casa, però anche in altre occasioni per questioni di salute, ed è stato lì che hai cominciato a inventare dei giochi, giusto? Sì, è giusto, infatti è una cosa molto... che si può molto assimilare a questo periodo, certo in una maniera diversa, ma comunque in vita mia ho dovuto subire vari interventi, insomma problemi sanitari mi hanno costretto a letto e fermo in casa. In questi periodi mi è venuto in mente, e così ho iniziato, a inventare dei giochi, perché questo qui mi ha dato un grandissimo coraggio, una grandissima voglia di superare i problemi, che ha aiutato me e la mia famiglia, e poi è diventato... diciamo una passione, e dalla passione poi è diventato anche una sorta di lavoro, ecco. Quanti giochi hai inventato, diciamo, nella tua vita? Ma diciamo, cioè, realizzati sono stati una dozzina, perché per fare un gioco bisogna passare da fare un prototipo credibile per industrializzarlo, e poi ho avuto tutta la trattativa con le varie editori per poterlo pubblicare. E il problema è che poi dopo, quando inizi a inventare giochi, poi dopo te ne vengono in mente infiniti e perciò sei tempestato da idee in continuo. Dunque, ma dicene uno che un possiamo. Gioco tira l'altro. Un gioco, un tira... gioco tira l'altro. Un gioco tira l'altro. Dicene uno che magari possiamo inventare anche noi a casa o fare per, no, pensare un po' a qualcos'altro. Sì, volentieri, proverò a. Mi è venuto in mente appunto un gioco che ho fatto qui sull'isola che si chiama Il Giro dell'Isola, che non è altro che una sorta di gioco dell'oca che segue il perimetro dell'isola andando a visitare personaggi e posti e luoghi interessanti. Ecco, io penso che questo gioco può essere replicato abbastanza facilmente da chiunque nelle proprie case oggi. E l'avrei pensato così. Secondo me la cosa migliore sarebbe scaricare da Google Map o altri siti il proprio intorno di casa, la propria mappa intorno al proprio condominio, la propria abitazione, estendendolo fino a punti dove trascorriamo normalmente, passiamo la nostra vita, sia la vita da liberi sia la vita a oggi, cioè fino al parco, all'edicola, fino al punto dove si fa la spesa, alla farmacia. Bene, una volta stampata questa mappa si può disegnare un percorso ad anello che più ci ispira, che più ci rende fantasiosi, dividendolo in caselle numerate progressive. Io consiglio di usare un mezzo, cioè di partire da casa propria e tornare a casa propria. Fatto questa prima parte grafica, bisogna inventarsi le tappe, quindi, certo, e poi alla bisogna, fine. Essendo un percorso progressivo a numeri, bisogna scrivere una leggenda, diciamo una regola, le regole con bonus e penalità. Ovvero, se ti scontri in una casella, puoi Ma avere. È il gioco dell'oca. Come sì. Il gioco dell'oca, perfettamente. Uno deve fare un gioco dell'oca della propria vita, del proprio intorno. In queste caselle uno ci può veramente metterci di tutto. Può Io dire ci metto il vicino antipatico, tipo, vicino quando antipatico, lo becchi, o quello che ti attacca a bottone, Tony. Quello che ti attacca a bottone, che ne so, gli amici, i divieti, i panorami, le persone che incontri e così via. Ognuno ha nella propria vita queste cose. Chiaramente ci si può sbizzarrire nella grafica, nei colori, nelle forme. Più elaborato e più divertente sarà la parte di realizzazione, più si riuscirà a coinvolgere anche, non so, i propri figli, perché penso in questi giorni molto a chi ha piccoli bambini o una famiglia chiusa in uno spazio piccolo. E niente, questa cosa qui, è una volta completato questo, la progressione viene fatta con un dado, le pedine si possono scegliere con oggetti di casa, non lo so, un tappo, un ninnolo, una gomma, un lapis, qualsiasi cosa. E si può iniziare a giocare in questa maniera qui. È un gioco, voglio dire, molto semplice, ma non è l'importanza del gioco in se stesso, ma è della progettazione e costruzione. Certo, del gioco. La costruzione. Senti Alberto, siccome adesso dobbiamo poi salutarci per certo. Questioni di clock, di come è certo. Costruita Radio 24, io so che tu ci tenevi molto però a fare un piccolo appello anche alle autorità in generale, perché Pantelleria resti quest'isola felice che è adesso senza contagi, no? Quindi la richiesta, diciamo, da parte tua è di massima attenzione e anche la famosa rispetto della quarantena per chi arriva. Certo, vedo, io è un problema abbastanza sentito, perché proprio perché non abbiamo nessun contagio vorremmo cercare di mantenere più che si può questa cosa. Purtroppo il pendolarismo è la cosa che ci preoccupa, perché non sappiamo chi arriva, i pochi che arrivano in che condizioni sono. Inoltre, a questa cosa qui è un problema molto grave, è che è stato chiuso il punto nascite qui a Pantelleria e in questo mese nasceranno ben 8 nuovi arrivi, e questo ci costringe a portare le ragazze incinta a Trapani o a Palermo e poi farle rientrare. Insomma, è una situazione abbastanza da attenzionare e chiediamo l'attenzione del Servizio Sanitario Regionale. Grazie molte. Allora, grazie molto. Massima prudenza, massima attenzione, grazie ad Alberto Zaccagni. Diamo l'indizio, Carlo, che dici prima della viabilità per Direi il personaggio della settimana? Assolutamente di sì, dai l'indizio. Ci hanno pensato in tanti. Questo è il primo indizio per indovinare il personaggio della settimana. Viabilità, tra poco. si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Monitorare i pazienti a domicilio. Siamo passati da un'area in cui il virus non è ancora arrivato, Pantelleria, e speriamo, come dicevamo, che non ci arrivi, a un'area come quella di Milano, dove il virus purtroppo è molto presente e i medici si danno da fare per tenere sotto controllo tutti i loro pazienti, medici di famiglia, e lo fanno anche attraverso questa app di cui vogliamo chiedere a Alberto Aronica. Buongiorno. Buongiorno. Vicepresidente della cooperativa Medici Buongiorno. Milano Centro. Voi, Aronica, avete iniziato utilizzando un'app che già c'era, no? Visitami. Ed era dedicata al controllo dei pazienti per altre patologie, è stata riadattata a questa situazione. Esatto, noi dal 1997 esistiamo come forme associative della medicina generale ed abbiamo la funzione di offrire ai nostri soci degli strumenti per lavorare meglio. Avevamo quindi messo in produzione una app insieme a una software house che si chiama Pagine Mediche, appunto questa Visitami, che doveva consentire e consente ai medici di monitorizzare i pazienti cronici. Lei sa che in Lombardia le cooperative stanno gestendo direttamente un gran numero di pazienti cronici e questa app aveva la funzione proprio di monitorizzare nel tempo i pazienti cronici, fragili e anziani al proprio domicilio, senza, tenendoli sotto controllo, senza farli ovviamente uscire. Qual è il problema? Che quando è scoppiata questa pandemia abbiamo deciso di convertirla perché la situazione richiedeva una modifica e quindi abbiamo modificato rapidissimamente questa app con la quale il paziente può monitorizzare alcuni parametri clinici molto semplici che abbiamo estrapolato dai pochi dati della letteratura su questa patologia, come la febbre, la tosse, il numero di respiri al minuto, la frequenza cardiaca, che sono tutte cose che il paziente può misurare senza bisogno di strumenti. Se poi avesse ad esempio il famoso pulsiossimetro, è un parametro ulteriore in più. Il paziente in questa app può riportarli, noi consigliamo almeno due volte al giorno, e questi parametri costantemente vengono mandati sul cellulare, sullo smartphone, sul computer o sul tablet del proprio medico, il quale in tempo reale ha un aggiornamento dell'andamento di questi parametri. E poi nel momento in cui ci fosse un qualcosa di strano, esatto, abbiamo studiato una specie di alert per cui se aumenta la febbre, aumenta il numero dei respiri o diminuisce la saturazione, scatta un alert che suona nel telefono del medico, il quale può immediatamente chiamare il paziente e, volendo, può fare anche una videovisita, nel senso che lo stesso sistema consente di collegarsi al paziente e di vederlo, il che clinicamente può dare dei parametri importanti. Questo ovviamente cosa comporta? Comporta che il medico, senza correre il rischio di andare al domicilio di tutti i pazienti, uno perché non potrebbe farla, faccia conto che in media ognuno di noi ha una trentina di pazienti che hanno dei sintomi molto probabilmente legati al Covid, e quindi come sa tutta la polemica, non abbiamo tutti la possibilità di proteggerci. Quindi innanzitutto può seguire molti pazienti e soprattutto il paziente non si sente abbandonato a se stesso anche nella famosa situazione di domiciliare, perché sa che è controllato e che se succede qualcosa il medico può intervenire, facendo intervenire appunto eventualmente l'emergenza, certo, o che cosa. Certo. Certo. E tra l'altro questo risponde a prepara, ecco, il terreno per il futuro, perché poi questa battaglia contro il virus dovrà andare avanti per lungo tempo, anche quando sarà passato questo picco, e diciamo in questa maniera si tiene sotto controllo il territorio, in sostanza. Assolutamente sì, noi siamo convinti che la battaglia la stanno vincendo gli ospedali, fortunatamente con lo sforzo dei colleghi ospedalieri, ma la guerra sarà molto lunga e la vinceremo soltanto se noi riusciremo a gestire sul territorio la maggior parte delle persone che obiettivamente, fortunatamente, molto spesso non evolve in forme molto gravi, ma il monitorizzarle costantemente permette di intervenire quei 5 minuti prima che a volte salvano la pelle, quindi sarà una guerra che purtroppo dovremo portare avanti per moltissimo tempo. E questo è uno strumento che noi diamo a, non solo ai nostri medici, perché obiettivamente è aperta a chiunque la voglia utilizzare. Ecco, questo l'avrei chiesto. È stato il nostro contributo. Noi immediatamente, quando abbiamo testato rapidissimamente in un fine settimana, in una settimana lavorando come dei pazzi questo sistema, abbiamo visto che funzionava, l'abbiamo comunicato anche alle autorità, alla regione Lombardia, dicendo che era a disposizione di chiunque volesse utilizzarla gratuitamente, e stiamo diffondendo proprio questa voce, grazie anche ad esempio ai media come voi, che chiunque la voglia utilizzare lo può fare, sia da un punto di vista del singolo paziente, il paziente può scaricarla anche da solo e automonitorizzarsi. Ma chi a quel punto lì chi è che lo monitora? Non più il suo medico? Allora, il paziente con questa può vedere un andamento e capire se ci sono dei problemi, ma può anche invitare il suo medico, perché è bivoca la cosa, cioè noi pensiamo che la cosa più corretta sia che il medico, che conoscendo il paziente, che sapendone i sintomi, lo coinvolge, quindi il metodo più corretto è il medico manda una mail al suo paziente dicendo: guarda, collegati a questo, queste sono le modalità, in questa mail c'è scritto tutto, dopodiché tu mi scegli, noi siamo nell'elenco dei medici che partecipano e da quel momento io ti monitorizzo. Ma viceversa, il paziente che entra può mandare lui, se conosce, una mail al suo medico dicendo: c'è questo strumento, lei mi può aiutare. Dopodiché sarà il medico che decide se farlo o no, però è aperta a tutti proprio perché è assolutamente gratuita sui normali siti in cui si scaricano le app, cioè quello come si chiama, gli ospedali, l'Apple. Ma se il medico non la scarica, chi lo monitora il paziente che si è scaricato la app? Nessuno si può monitorizzare, nel senso che ci sono dei parametri che gli dicono se questi diventano peggiorativi, come esattamente per il medico, guarda che la situazione richiede l'intervento del medico, chiama il tuo medico o chiama il soccorso, perché ovviamente noi non possiamo obbligare tutti i medici a fare questo servizio ai propri pazienti, ma credo che sia abbastanza comune che se il paziente lo richiede il medico sicuramente lo prenda in carico. Sì, come minimo che se il paziente denuncia, diciamo, una serie di parametri che l'app a quel punto li visualizza, il medico lo prende in carico per forza. Quindi. Assolutamente sì, e poi dopodiché anche il solo paziente. Ma il carico è già in carico, il suo medico di base, il problema è che devi guardare l'app. Certo, però è il paziente che può richiedere al suo medico di essere seguito. Tenete presente che tra tutti i pazienti che noi abbiamo, ognuno di noi ha mediamente 1200 cittadini che segue, esiste anche tutta una popolazione che è molto spaventata, che è ansiosa, che non ha in realtà patologie, per cui il problema è che solo noi che li conosciamo perfettamente potremmo capire se quello che denunciano è sicuramente un sintomo o c'è invece una grande quota d'ansia. Faccio un esempio: l'altra settimana un mio giovane paziente mi ha chiamato tutto spaventato, gli ho detto di monitorizzare due o tre parametri, erano tutti assolutamente perfetti, l'ho tranquillizzato e so che sta benissimo perché si è tolto questa paura, tra virgolette. Certo. Però è chiaro che esiste. Mi prendo il suo numero di telefono, perché io sono fra il gruppo di quelli ansiosi che ogni tanto mi sveglio e ho la sensazione di avere tutti i sintomi. Adesso ti scarico l'app, dai. Adesso vi devo salutare perché dobbiamo dare la linea GR24. Comunque voglio ricordare che l'app si chiama Visitami. E appunto poi vi metto in contatto diretto, così Carlo può parlare con il dottor Aronica. Grazie molte, grazie. Prego, molte, e giornata. Buon proseguimento, buona giornata. Grazie. Linea GR24, ci ritroviamo subito dopo. Si può fare. può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci qui pronti per proseguire nella nostra puntata con Enrico, che ha chiamato dalla provincia di Milano per indovinare il personaggio della settimana. Buongiorno Enrico. Buongiorno, buongiorno a voi, buona giornata. Allora, le ricordo l'indizio, ci hanno pensato in tanti e quindi lei ci dia la risposta. Pensavo ai titoli di Stato, ai bot, che ne avremmo tanto bisogno per rilanciare la nostra economia. Ci hanno pensato in tanti, quindi lei non parla di quelli europei, insomma. Lei no, parlo proprio dei bot italiani, proprio dei nostri vecchi bot, amati bot che erano in voga negli anni quelli primi. Lire. Della economia. Quelli in lire. Quelli che erano una volta erano in lire, sì, certo. Adesso ovviamente saranno in euro, magari, sì, visto che l'Italia ha una valanga di risparmio privato, potrebbero essere utilizzati a fin di bene per rilanciare la nostra economia. Vediamo un po' cosa dice il nostro notaio di questa risposta. Vabbè. Non era questo, però, insomma, lei ha colto sicuramente uno dei temi della settimana in discussione. Certo. E quindi Enrico, grazie. Grazie per aver chiamato. Vi ascoltiamo sempre, una bella trasmissione. Lei ha già idea di che cosa farà dopo? Ah, io guardi, sono in pensione, ho il giardino, cerco di passare le giornate in giardino e dopo vedrò di andare, magari oggi è il compleanno di mio figlio a Roma, approfitto magari se sento la trasmissione e mandargli gli auguri, compie oggi 47 anni e purtroppo siamo legati qui in Lombardia perché non ci si può muovere. Ma neanche lui si potrebbe muovere. Certo, siamo tutti qui. Vabbè. Siamo tutti così. Grazie Enrico, buon proseguimento, buona giornata. Buongiorno. Quante volte gliel'ha detto a suo figlio? Purtroppo noi siamo in Lombardia, invece tu stai a Roma. Tantissime volte, soprattutto quando sono al ristorante, guardi. Ah, giustissimo. I ristoranti di Roma sono una cosa eccezionale. Va bene, dai, vi troverete a festeggiare al ristorante a Roma presto, speriamo. Grazie molto Enrico. Grazie. I like to start out by saying, fellas, good night. Yeah. You know what it's about. If you're looking for a mister, someone to treat you right. Well, I was talking to your sister. Tra le poche uscite ammesse in questo periodo c'è quella per andare a comprare i giornali in edicola, cosa che noi, Carlo, vero, caldeggiamo moltissimo. Noi certo, cioè, ma soprattutto diciamo per parlare con l'edicolante più che per il giornale in sé, che insomma no anche per il giornale, scusa, dalla mattina alla sera o al computer dalla mattina alla sera. Quindi, noi anche per il giornale. Per i giornali. Ecco, vabbè, punti di vista diversi. Allora, però c'è un'iniziativa che nasce da Corriere dello Sport e Tutto Sport. Io resto in edicola, questo è un hashtag su Twitter per ringraziare gli edicolanti che continuano a portare avanti il loro lavoro, dimostrano che l'informazione, insomma, non si ferma, perché se non ci fossero loro a vendere i giornali, insomma, sarebbe un po' difficile. Un'iniziativa che, come dicevo appunto, nasce da giornali sportivi. In particolare noi abbiamo ospite Xavier Iacobelli, buongiorno, direttore di Tutto Sport. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori di Tutto Sport. Allora, di Tutto Sport anche. Buongiorno. Allora, agli ascoltatori di Radio 24. Che leggono Tutto Sport, è una precisazione. Allora, come sta andando questa iniziativa? Come vi è venuta in mente? Insomma, come si porta avanti? Ci dica un po' tutto. Beh, intanto è un atto di gratitudine nei confronti degli edicolanti e degli edicolanti che, nonostante il coronavirus, hanno deciso di mantenere aperti i propri esercizi. Ed è un'iniziativa che sta riscontrando un lusinghiero successo, perché siamo letteralmente inondati da fotografie, da selfie, da messaggi che gli edicolanti da tutta Italia inviano a Tutto Sport proprio per sottolineare il loro impegno, la loro volontà di fare al meglio la propria esercitare al meglio la propria professione. E in particolare all'interno di queste iniziative ce n'è anche un'altra, che è Tutto Sport a casa tua, e ci consente di segnalare ogni giorno quali siano gli edicolanti del nostro paese che effettuano servizio a domicilio. che è particolarmente importante soprattutto per ciò che concerne le persone anziane che non possono muoversi. Sarebbe meglio proprio che non si muovessero, no? Ripetiamolo. Non si possono muovere, a giudicare anche dai messaggi che ci arrivano, e questo dimostra l'utilità sociale, oltre che l'impegno civile degli edicolanti, perché garantiscono un diritto fondamentale qual è quello dell'informazione, della carta stampata. Dio solo sa quanto in questo periodo noi abbiamo bisogno di un'informazione che sia autorevole, attendibile e credibile, in considerazione delle panzane che dilagano sul web, che molto spesso propalano notizie che non stanno né in cielo né in terra, soprattutto in materia di salute e di sanità. Ah, sicuramente. E io penso che anche i quotidiani, appunto, sportivi possano dare un grosso contributo, raggiungono una fetta di popolazione importante e che quindi può essere raggiunta, no, magari unendo il diletto all'informazione corretta sull'aspetto in questo specifico periodo sulla salute. Ma noi da un mese e mezzo a questa parte, a causa ovviamente dello stop a tutte le attività agonistiche, abbiamo radicalmente cambiato i contenuti del nostro giornale, e cercando di coniugare ovviamente l'attualità che riguardi lo sport, che sta prefigurando scenari di ripartenza, fermo restando il fatto che c'è una gigantesca quanto invisibile spada di Damocle che pende sulle nostre teste, che risponde al nome di coronavirus, all'attualità strettamente legata all'epidemia e ai teatri di focolaio nel nostro paese, ma lo sport dispone di una formidabile cassa di risonanza mediatica, la più importante e la più ascoltata nel nostro paese. Quindi le iniziative di solidarietà che sono state intraprese, oserei dire una valanga di iniziative, da parte dei campioni dello sport di ogni disciplina, delle società, le sottoscrizioni a favore degli ospedali, si coniugano a interventi molto importanti. Ieri abbiamo pubblicato un'intervista esclusiva con il virologo Roberto Burioni, che ha fatto il punto della situazione e in particolare ha aperto uno spiraglio per quanto concerne la ripresa dell'attività agonistica, precisando ancora una volta che questa ci sarà, ma dipenderà dall'evoluzione della situazione sanitaria. E secondo me ha usato una significativa, quanto mai azzeccata e felice, metafora calcistica, perché ci ha detto che la partita con il coronavirus era cominciata malissimo, tant'è vero che il virus si era portato sul 3-0, poi c'è stato il 3-1, il 3-2, il 3-3, adesso è necessario segnare il gol del 4-3, cioè il gol della vittoria, ma per segnarlo tutti devono restare a casa, tutti devono rispettare rigorosamente le direttive che sono state impartite. Dopodiché, quando... Direi che siamo nei tempi supplementari, prima di diciamo, va bene il pareggio, ma siamo assolutamente ancora nei tempi supplementari, dobbiamo rimanere chiusi a casa a guardare le partite che non ci sono. Infatti volevo parlare di sport con lei, nel senso, che cosa sta succedendo allo sport, che cosa raccontate su il quotidiano sportivo? Ma noi raccontiamo intanto come lo sport sta vivendo questo periodo, questo limbo in cui è sospeso, e oltre ovviamente alle notizie legate alla cronaca di ogni giorno, abbiamo visto come l'una dopo l'altra le principali manifestazioni siano saltate, rinviate o cancellate. Però ci sono le storie di sport, stiamo rivisitando alcuni tra gli eventi più spettacolari, più importanti della storia dello sport mondiale, così come raccontiamo il modo in cui i protagonisti dello sport, grazie anche ai loro contributi sui social, vivano questo periodo di forzata inattività, così come è evidente che tenga banco. Ah, quindi non odia il web, i social vanno bene. Ma io non l'odio affatto il web, io detesto chi propaga. No, perché prima diceva sul web ci sono le bufale, allora il cartaceo, allora mi chiedevo. No, in realtà anche la cosa che volevo capire era che cosa succede al campionato, secondo lei? Ma io credo che giustamente la Federcalcio, la Lega, la UEFA in ambito europeo, la FIFA in ambito mondiale, in questo momento prefigurino scenari di ripresa e sanno benissimo che tutti questi scenari potranno tramutarsi in realtà solo e soltanto quando le autorità sanitarie daranno il via libera, prima per la ripresa degli allenamenti e poi per la ripresa dell'attività agonistica. Secondo l'UEFA, la Federcalcio europea, le coppe arriveranno alla loro naturale conclusione entro agosto. Così come è presumibile che qualora il campionato riprendesse nella seconda metà di maggio, debba sforare la data fatidica del 30 giugno, che storicamente è la data della conclusione ufficiale della stagione agonistica, ma questo a mio avviso sarebbe l'ultimo dei problemi. Finalmente in estate ci verrebbero risparmiate quelle inutili amichevole e quelle inutili tournée intercontinentali, buone soltanto per rimpinguare le casse societarie, ma deleterie per la preparazione per il campionato. Nel frattempo ricordiamo l'hashtag Io Resto in Edicola e l'iniziativa che va avanti, anche un sostegno, diciamo, agli edicolanti in questo momento difficile, no? Come da una parte presidio sociale, dall'altra appunto come luogo in cui molto avviene, ecco, diciamo. Poi è consentito comunque andare in edicola. Gli ascoltatori mi dicono ma qualcuno è stato multato perché andava in edicola. Forse non era credibile, ma in teoria si può. No, in teoria, in pratica assolutamente sì. Ecco, non era credibile quella persona che è stata multata, probabilmente. Cioè, non so per quale motivo sia stata multata, ma risulta regolare che sia assolutamente. Mi sembrava nell'elenco delle possibilità. Anche perché le iniziative, come Io Resto in Edicola, non avrebbero senso. Dipende, secondo me, non so che tipo di disavventura sia, in quale tipo di disavventura sia incappato l'ascoltatore che fa riferimento. Ma le edicole regolarmente aperte svolgono veramente un servizio che non è soltanto di forte impegno civile, ma anche una carattere sociale, perché per esempio l'edicolante dove regolarmente ogni mattina acquisto il giornale mi racconta di come il suo sia diventato un punto di incontro e di dialogo e di colloquio, sebbene a distanza, sebbene ovviamente con le mascherine, con i guanti, sebbene adottando le precauzioni che bisogna adottare, però è anche un punto di dialogo, di confronto, di esame della situazione e di prospettive. Insomma, c'è anche questo ruolo che peraltro storicamente gli edicolanti hanno sempre ricoperto. Come no? Nei tempi della normalità, che viene evidentemente accentuato dall'emergenza che stiamo vivendo. Grazie direttore, grazie, buon grazie proseguimento grazie con questa grazie iniziativa, mille. Grazie e adesso una piccola pausa. Si può fare. Si può fare, si può fare, si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. We're so thin, living and dying and the stories that are true. Ed eccoci di nuovo insieme, Carlo. Io darei il secondo indizio, concordi con me? Assolutamente sì, dai, assolutamente. Dai, questo tocca a te. Tocca a te il secondo indizio questo per indovinare il personaggio della settimana. Il nostro personaggio è tornato. Quindi ci hanno pensato in tanti, il primo indizio. Il secondo indizio è che è tornato. Benissimo, 800... Premete le meningi e potete già prenotarvi. 824-00-24. Nel frattempo noi vogliamo parlare di supercomputer. Supercomputer di Enea, che è stato messo a disposizione di tutta la comunità scientifica per la ricerca su farmaci e vaccini, ovviamente per combattere il coronavirus. Gian Piero Celata, direttore Dipartimento Tecnologie Energetiche e ICT di Enea, è in collegamento con noi e buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Allora, questo appunto, no, quello che avete fatto, ma cosa serve un supercomputer in questa, no, in questa fase? Ma serve per fare delle simulazioni, per esempio sull'efficacia di alcuni composti nei confronti del contrasto al virus. E in questo momento viene utilizzato da un gruppo di ricercatori dell'Università di Firenze, i quali hanno identificato un target, un bersaglio, una proteina che è la proteasi principale del Covid-19. Hanno identificato una serie di composti, li hanno valutati, hanno scremato con degli algoritmi quali di questi potevano essere efficaci per inibire la replicazione del virus bloccando questa proteina, e poi hanno fatto una simulazione utilizzando il Cresco 6, il nostro supercomputer, per valutare quali di questi 20-30 che avevano selezionato potevano essere, diciamo, i migliori per andare a breve, speriamo, mettere a punto un farmaco. Mi sembra una, no, una bellissima, come si dice, un bellissimo lavoro quello che vi aspetta anche, tra l'altro di collaborazione con tutte le università italiane. Ho visto che avete già iniziato con Firenze, quindi via via poi arriveranno anche altri, ciascuno. Sì, altri gruppi hanno già chiesto l'attivazione delle credenziali per accedere, e più viene utilizzato e più siamo felici per questo scopo, ovviamente. Eh beh, certo, anche perché no, voglio dire, avere una macchina che può fare queste cose, leggo che è ormai tra i primi 500 a supercomputer mondiali, 420esimo posto, quello italiano. Ed è seconda in Italia dopo quella di Cineca, quindi una macchina estremamente potente che consente di fare un numero di operazioni che è lontano dalla nostra capacità di identificare il numero, no? 1,5 miliardi di miliardi di operazioni al secondo, cioè spaventoso. E questo consente di fare più di quello che faremo tutti noi italiani, credo, durante tutta la nostra vita. Sì, anche durante la nostra quarantena, nonostante il tempo a disposizione, certamente. Però nella quarantena parte... di sicuro, ricordo, 1,5 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo. Che se non ho capito male si dice 1,4 petaflops. Esatto, 1,4 in 10 alla 15, quindi sono 15 zeri per identificare il numero delle operazioni. Però al di là delle battute, dei numeri, eccetera, questo vuol dire che in poche ore questo gruppo è riuscito a valutare se quel composto poteva essere efficace ad inibire questa proteina oppure no, senza impiegarci mesi. E questo chiaramente di questi tempi ha un significato particolarmente importante. Cioè, in questo caso, quando noi ad esempio utilizziamo questo supercomputer per progettare materiali, risparmiamo un sacco di tempo e lì possiamo dire che il tempo è denaro. In questo caso dobbiamo dire che il tempo è vita, perché prima arriviamo e più vite si riescono a salvare, non ci sono dubbi. Certo. Per rimanere nel tempo e denaro, ci chiediamo se anche l'INPS vi chiederà una mano e vi chiederà di poterlo usare per il famoso bonus, visto che gli sono andati giù i server, hanno avuto i problemi anche di privacy e tutto. Ma noi abbiamo anche parecchie macchine, perché come avrete letto, questa è, lo chiamiamo Cresco 6, cioè è il sesto upgrade della macchina. Ma le macchine precedenti... Ah, per l'Inps va benissimo anche il Cresco 3, guardi. Ma questo è che le stavo dicendo. Le macchine precedenti noi ovviamente non le abbiamo buttate, ma le utilizziamo come macchine di backup, macchine di disaster recovery, e quindi tutte quelle operazioni a supporto della nuova macchina. Quindi viene sempre tutto riciclato e utilizzato nel migliore dei modi. Però voglio dire, anche purtroppo fare le cose di corsa fa incappare in errori e... Tipo quelli dell'Inps o di altro, inevitabilmente. Certo, ma senta, adesso che questo computer è impegnato con i calcoli per l'Università di Firenze, però comunque può portarne avanti altri contemporaneamente. Per carità, è una macchina estremamente potente, però ci tengo a dirlo che è da sempre a disposizione della ricerca. Fino a pochi giorni fa i dati che mi hanno fornito indicavano che un quarto del tempo macchina è utilizzato per gruppi di ricerca esterni all'Enea. Questo sempre e comunque gratuitamente, ci tengo a dirlo, perché qualcuno magari ha anche pensato che siamo entrati sul mercato, stiamo solo dando disponibilità. La macchina è immensa e io mi prendo comunque la responsabilità che laddove ci sia un sovraffollamento, la priorità assoluta la darò sempre e comunque esclusivamente in questo momento ai calcoli per i gruppi che fanno farmaci e cose del genere. C'è un'ascolta... Ma mi scusi la domanda stupida, sì. Ma quando dice la macchina è immensa, perché ho bisogno di immaginarla, quanto grande è questo computer? Perché ovviamente insomma noi siamo abituati ai nostri piccoli computerini, infatti anche quando lei dice certo che viene usato da più persone, noi ci chiediamo ma come, avrà più di un mouse? Ma quanto è grande questa macchina? Beh, i mouse sono tanti. Sto facendo lo stupido ovviamente. No, ma la domanda è più che pertinente. Potrà anche trovare dei filmati di repertorio quando il 30 maggio del 2018 abbiamo proprio inaugurato il Cresco 6. È molto grande, sono delle grosse stanze dove questa macchina alloggia e dove c'è anche una climatizzazione molto spinta, perché deve stare a temperature particolarmente basse rispetto all'esterno, deve stare intorno ai 18 gradi, 20 gradi, quindi c'è anche un certo impegno nella climatizzazione degli ambienti, eccetera. E anche poi perché scalderà moltissimo, immagino. Scalda moltissimo, certamente. Però poi i mouse sono tantissimi, perché l'accesso è da remoto, quindi il gruppo dell'unità di difesa lavora dai propri computer e accede. C'è un ascoltatore che chiede a ripetizione, direi, se è un computer quantistico. Io non solo leggo, non... No, quantico. Per favore, potete chiedere se è un computer quantico? È un calcolatore per il calcolo parallelo, quindi diciamo che ha, credo, un po' più di 20.000 processori che lavorano in parallelo, come se fossero 20.000 computer che in parallelo lavorano, suddividendosi i calcoli e potendoli fare più velocemente. Va bene, spero che abbia soddisfatto la curiosità. Dunque, certo. È a Portici, vero, questo centro? È a Portici. Nell'università? No, ma c'è un centro Enea. All'interno del centro di ricerca dell'Enea. Il motivo per cui è stato fatto a Portici è perché la prima versione ha usufruito di fondi che andavano alle regioni del Mezzogiorno, e noi, avendo lì un centro importante per noi, perché è un centro di circa 150-180 persone, l'abbiamo installato in quella zona. D'altra parte la posizione del computer è assolutamente influente, può stare lì, può stare a Roma, può stare a Brindisi, funziona esattamente nella stessa come cultura. Ci diceva, poi ciascuno accede da remoto. È un posto bellissimo. Portici è un posto bellissimo, il centro di Enea sta sul mare, quindi invidio, io vado spesso a Portici, invidio di colleghi che lavorano lì, che hanno la vista mare dal proprio ufficio, stupendo. Mi sembra un'ottima scelta, dico, potendolo mettere dove volete, giustamente uno non è che sceglie Rogoredo, giustamente avete fatto molto bene. Ma le volevo chiedere una cosa, voi siete attivi anche sulla didattica a distanza? Nel senso che dal vostro dipartimento è arrivato anche un contributo? Sì, facciamo anche la cosiddetta e-learning, cioè la possibilità di fare lezioni su vari argomenti, fare informazione, divulgazione su vari argomenti. Benissimo, quindi c'è un po' tutto, ma sicuramente c'è la vostra disponibilità. Vogliamo dare questo indirizzo, aspetti che lo recupero, con il quale potete... Cresco for Covid-19. @enea.it cresco for covid19@enea.it e lì appunto vi possono contattare chi ha progetti appunto che possono necessitare del grande computer che voi avete e che state appunto mettendo a disposizione, lo ricordo, soprattutto per chi fa ricerca in questo momento contro il... Ecco, sì, lo ricordo anche ai nostri ascoltatori, che se no magari mandano una mail per chiedere se gli risolve il calcolo della divisione dei millesimi del condominio. No, quello su quello è un problema che va affrontato indoor con i computer di casa o dell'amministratore. Esatto. Va bene, piccola pausa, tra indoor pochissimo. Perfetto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E devo ringraziare e salutare Giampiero Celata. Io ho preso dall'ansia di dare spazio, no, all'interruzione che avevamo alle 9.30, non l'ho salutato. Giampiero Celata, direttore Dipartimento Tecnologie Energetiche e ICT di Enea. E adesso, Carlo, diamo il benvenuto a un ascoltatore che chiama per il personaggio della settimana. Lui è Pasquale, ci ha chiamato dalla provincia di Forlì Cesena. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno, allora secondo lei chi è questo personaggio che corrisponde a questi indizi? Ci hanno pensato in tanti ed è tornato. Guido Bertolaso, perché? Perché è tornato e ci hanno pensato tanti per l'emergenza che stiamo vivendo adesso, l'emergenza sanitaria, come coordinatore della protezione civile. Allora, sentiamo un po'. Non era Bertolaso. Però grazie per averci provato, Pasquale. Nulla. Grazie molte. E magari lo scopriremo, chissà. Altrimenti ricordo che come sempre ogni lunedì noi mettiamo su Facebook la risposta nel caso non venisse indovinato nel corso di questa puntata. Carlo, diamo il terzo indizio, io penso. Ma certo che sì. Allora, il terzo indizio è stato di parola. Quindi ricapitolando, ci hanno pensato in tanti, è tornato, è stato di parola. Questo è il terzo indizio, il numero verde è 824 0024, affrontiamo tutt'altro tema, adesso andiamo dai supercomputer al latte. Abbiamo Giampiero Calzolari, presidente di Granarolo. Buongiorno e bentornato a Si può fare. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il settore intero è un settore che, se parliamo specificamente di latte, sta attraversando un momento di grande difficoltà, direi, no? I consumi sono crollati, è mancato tutto il canale bar, ristoranti, ma in generale il fatto di fare la spesa, no, una volta alla settimana fa sì che più che il latte fresco magari si prediliga quella lunga conservazione. Voi ovviamente vi siete trovati a fronteggiare questa situazione, da una parte gli allevatori e dall'altra i consumatori. Cosa state facendo? Sì, come ha detto lei, in poche ore è sparito dalla circolazione un mercato che rappresenta un quarto del mercato nazionale, vale per noi ma vale anche per gli altri nostri, diciamo così, colleghi. E quindi, perché l'oreca, quindi bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, eccetera, eccetera. Il consumatore in effetti ha spostato i suoi consumi sulla grande distribuzione che sta segnando dei fatturati in crescita rispetto all'anno scorso. Inizialmente molto, diciamo così, veloci, poi adesso si sta ridimensionando, però sicuramente qualche punto in più rispetto agli stessi giorni dell'anno scorso. E però ha cambiato abitudine, quindi evidentemente quello che era il latte fresco, che è una delle alimentazioni fondamentali della nostra dieta mediterranea, della dieta nazionale, e poi il latte fresco di alta qualità è una peculiarità del nostro paese, di cui noi siamo in qualche modo il portavoce. È più difficile, è più difficile perché ha una durata breve, quindi il consumatore si è rivolto a latti che hanno una durata più lunga, il famoso UHT. Ma c'è un problema, per la filiera questo è molto meno remunerativo, perché si produce un latte eccezionale per mettergli un latte che non è certamente di scarsa qualità, ma non ha niente a che fare con il latte fresco. Si perde poi tutta una serie di, no, di nutrienti, sì, in questo passaggio. Diciamo che quando si parte dal latte fresco al latte UHT, sostanzialmente viene esposto a temperature molto alte e quindi perde le proprietà delle proteine, si degradano le vitamine, quindi abbiamo un prodotto che dà sicurezza, che dà tempo, però che perde un po' in freschezza e quindi anche in qualità, quindi si rimette, diciamo, un po' la filiera. Però quindi il latte è lo stesso, mi perdoni? Assolutamente. Io pensavo che il latte UHT fosse, sono un po' stupido, pensavo che fosse un'altra cosa, invece è sempre latte, ma è lavorato e si perdono, quindi quello che ci stava dicendo, un sacco di caratteristiche, ma è sempre latte, è sempre delle mucche e voi vi occupate anche di quello. Latte che viene termizzato diversamente. Poi viene scremato, qualcuno viene scremato, qualcuno viene additivato, insomma, quelle sono procedure industriali. Certo, alcuno parzialmente. La materia prima è assolutamente la stessa. Quindi cosa è successo? Noi abbiamo 700 allevatori soci e quindi non è che potevamo dirgli non c'è latte fresco e quindi tenetevi il latte come sta facendo magari qualche altra azienda. In poco tempo abbiamo riconvertito, per cui abbiamo rallentato le linee che lavorano latte fresco e potenziato le linee che lavorano UHT e mozzarelle che stanno andando molto bene, anche quelle, devo dire la verità, poi anche altri prodotti. Il nostro volume di latte, parlo per noi, è lo stesso, anzi stiamo comprando del latte da aziende in difficoltà perché abbiamo sostituito delle linee di latte UHT che provenivano dal mercato da produttori esteri con produttori locali. Quindi abbiamo trovato la possibilità di dare una mano anche ad alcuni allevatori che non riescono a conferire il loro latte o ad una linea di trasformazione in questo momento hanno eccedenze di latte. Quindi abbiamo dato anche una mano al di fuori della nostra filiera. Però è chiaro che dal punto di vista dei conti, i conti non saranno gli stessi, quindi certo. Intanto però, come dire, siccome abbiamo diciamo così, il privilegio di poter lavorare, diciamo anche la verità in questo momento, no? Anche la responsabilità di dover produrre cibo, in questo momento noi stiamo facendo quello che si deve fare, non una goccia di latte deve andare perduto, se lo possiamo permettere noi perché abbiamo 14 stabilimenti in Italia, quindi se non funziona un prodotto, ne faremo un altro. Pensate alla tragedia dei caseifici del sud che producono fondamentalmente mozzarelle non per la grande distribuzione, ma destinate al 70-80% locali, è veramente una tragedia. Sì. Al nord il latte viene destinato ancora in grandissima parte, invece, oltre che il latte fresco, formaggi freschi, come le mozzarelle, la parmigiana e la grana padano, che in questo momento non hanno ancora risentito della crisi, c'è molta preoccupazione. Molti di questi prodotti vanno all'estero, noi siamo anche molto preoccupati ovviamente per cosa succederà nei mercati esteri, perché i nostri prodotti, sono prodotti di eccellenza, normalmente hanno una distribuzione come così, un po' più pregiata e quindi chiaramente la difficoltà dell'Europa, sia in termini di restrizioni, ma anche la difficoltà logistica, la chiusura dell'Oreca anche in Francia, Spagna. Certo, è tutto collegato. Quindi ci aspettano giorni difficili, diciamo, molto difficili. Senta, a proposito di inventarsi, insomma, anche come attraversare questi giorni difficili, ho visto che avete anche voi cominciato a pensare a fare delle consegne dirette, di consegna domiciliare. Sì. Allora, un servizio che è partito a Bologna. Poi adesso, con gradualità, andremo a Modena e poi i prossimi giorni vorremmo partire su Milano. Perché questo? Per la ragione che dicevo prima, noi abbiamo dei consumatori affezionati al nostro prodotto che magari vanno a fare la spesa ogni 10 giorni e quindi come fanno a prendere un latte che dopo 6 giorni per legge... Però di questo avevamo già parlato, mi ricordo, che in realtà sì, poi dura un bel po' di più. Stiamo reiterando questa cosa, dicendo ancora di più oggi. Toglieteci sta data. Inutile perché è determinata da una legge di 30 anni fa, lasciateci vendere il latte fresco che dura 10-12 giorni e vedrete che i consumatori ricominceranno a consumare latte fresco. Ma questo è un altro tema rispetto alla domanda che mi faceva lei. Invece, per la stessa ragione e perché una parte della flotta che utilizziamo per consegnare all'Oreca in questo momento è ferma, la flotta di automezzi, abbiamo pensato di dare una mano ai nostri consumatori e ovviamente anche garantire il lavoro delle nostre persone, perché poi abbiamo anche questo tema e quindi abbiamo iniziato prima telefonicamente, poi abbiamo messo un sito per cui è possibile ordinare una spesa e gratuitamente in questi giorni a Bologna stiamo consegnando i nostri prodotti che non sono solo latte evidentemente, sono parmigiano, banano, prosciutto perché noi abbiamo anche un prosciutto di piccio, aceto, insomma prodotti da forno, abbiamo ampliato un po' la gamma e quindi stiamo consegnando. Da queste ore abbiamo allargato il comune dell'Intra Bolognese, vorremmo partire su Modena e poi ovviamente anche a Milano, perché a Milano siamo presenti con la centrale del latte di Milano, quindi un marchio molto affezionato ai milanesi e poi un grande mercato e poi vediamo se questa cosa rimarrà o meno nel dopo coronavirus, vedremo magari. Cioè, bisogna via via adattarsi alle situazioni, questa direi che... Però mi sembra molto interessante, questo che stava dicendo, cioè poi vediamo, nel senso che è veramente un cambio di paradigma, cioè è veramente dal produttore al consumatore, come spesso si dice, saltando l'anello della distribuzione dei negozi. Quindi lei pensa che dopo, quando o se ci sarà un dopo, come sarà, potrebbe rimanere attiva questo tipo di consegna, cioè che Granarolo direttamente uno telefona e gli arriva il latte a casa? Allora, dopo ci sarà sicuramente da anni che noi stiamo giusto, ha ragione, la crescita dell'online, no? Quindi, però magari abbiamo sempre pensato che fosse più congeniale, che so, per comprare un computer piuttosto che altri prodotti, le ferramenta, magari i libri, vestiti, ma non il cibo fresco. E invece funziona anche con il cibo fresco, perché noi stiamo facendo consegne, però nella mia città i venditori di frutta e verdura stanno consegnando a casa, tutti, addirittura le stesse organizzazioni agricole stanno consegnando i loro mercatini, che non sono più consentiti, si stanno impegnando a consegnare a casa frutta e verdura. Certo, tanti che ci stanno, paradossalmente sembrano quasi più bravi e più preparati loro di alcune strutture più grandi, o forse diciamo perché hanno un rapporto più intimo con i propri clienti. Sì, allora, diciamo così, noi siamo partiti piano piano, certamente non abbiamo la pressione che hanno le grandi strutture, che in questo momento hanno dei tempi di consegna lunghi, ma sappiamo bene che è difficile a rispondere in poco tempo a un aumento del 200% da qualche parte ho letto. Noi consegniamo nel giro di 48 ore, quindi credo che sia un buon servizio. Chiaramente si apre una riflessione sull'online, forse anche da questa cosa il nostro paese si aprirà, come altri paesi stanno già facendo da tempo, a questo nuovo canale, che diventa un vero e proprio canale. Sarà così anche per il fresco? Noi adesso intanto ci cimentiamo, se fosse così siamo pronti, abbiamo 1000 camioncini, abbiamo il sito, abbiamo una marca conosciuta, e vediamo. Ovviamente per noi il canale principale rimane la grande distribuzione, ritornerà ad esserlo Recap, perché vogliamo pensare di poter tornare al ristorante o in pizzeria, o nelle messe aziendali, perché le fabbriche riapriranno, però sicuramente ci sarà un po' di consumo. D'altra parte ci stiamo abituando, certo, a lavorare al computer anche da casa, cosa che dicevamo che ci sarebbe dovuto fare, ma in realtà non facevamo. Quindi stiamo davvero cambiando. Verissimo. Ma senta, ma avete spostato proprio dei dipendenti che prima lavoravano in un settore e adesso si occupano delle consegne, o è un altro settore? Allora, noi abbiamo prima tutte le mattine la famosa flotta dei 1000 camioncini consegnava a 50.000 punti vendita. Grande distribuzione, certo, organizzata, bar e quant'altro. La distribuzione delle due ci sta sollecitando di più, e quindi stiamo anche lì riorganizzando i consegni. La distribuzione organizzata che rimane aperta anche, però sicuramente ci sono persone che non hanno più il destinatario del loro lavoro, e quindi le stesse persone che prima facevano le consegne, che so, al bar, oggi consegneranno ai condomini. Questo un po', certo, un po', la flotta è quella, cambiano gli indirizzi. Esatto, la parte amministrativa si è abituata, perché prima ovviamente si pagava in carta di credito, fattura, eccetera, adesso bisogna andare ancora lì, stiamo facendo i pagamenti, oggi siamo partiti dal contante, poi abbiamo fatto le carte di credito, poi faremo il pagamento online, vedremo, insomma, si sta implementando, è veramente un lavoro in progress, perché questa vicenda ci sta spiegando che se c'è un'idea bisogna metterla in cantiere in poche ore, non possiamo pianificare coi tempi di prima, che pianificavamo con tempi lunghi. Oggi bisogna essere velocissimi, e devo dire che questa cosa ha creato anche un certo, tanta attenzione e tanta simpatia, ecco. Noi consegniamo anche un quotidiano locale, perché è stato parte con noi della... Ah, ecco, quindi già che ci siete, consegnate anche quello, benissimo. Esatto, perché poi magari uno deve stare a casa e ha piacere di avere il suo quotidiano. E come no, e come no. Grazie molte. E poi quello è il passaggio successivo, di fare sinergia, anche perché insomma non possiamo nemmeno avere un fattorino con i 3 minuti di suono, già che va un fattorino, porta il giornale, il latte, mi sembra perfetto. Grazie Giampiero Calzolari, presidente di Granarolo, buon proseguimento, abbiamo la piccola pausa per il traffico. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E abbiamo un altro concorrente per il nostro indovinello, e si chiama Franco, ha chiamato da Padova. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno Franco, tutto bene? Sta bene? Ma sì, dai, non mi lamento, a parte che oggi festeggio il 10° anniversario della fondazione della mia società. in queste condizioni, quindi dai. Di che cosa si occupa la sua società? Una palestra in provincia di Padova. È chiaro che la situazione, certo, non è un decimo compleanno, sarà un decimo compleanno da dimenticare, diciamo così. Ma dai, era un obiettivo, magari si sperava meglio, comunque adesso. Ma lo rinvii, lei faccia finta, lo fa, la festa la fa tra due mesi, così almeno. Tanto voglio dire, lo sa solo lei. Va bene, Franco, chi è il personaggio della settimana? Secondo me è Zingaretti, perché era sparito dalle scene, però aveva promesso che sarebbe tornato e è tornato. Quindi è stato di parola, dice lei. Sì. Vediamo un po'. No, Non è neanche Zingaretti, anche se, no, Carlo, le motivazioni sostenevano, insomma, no, questa ipotesi. Ma mi stavo chiedendo quale Zingaretti fosse, perché non capivo se era Montalbano che sta tornando in televisione e stanno rimandando in onda, o se era Zingaretti del PD. Franco, c'è ancora? Sì, sono qua. No? Dico, Montalbano ce l'abbiamo sempre presente. Dico, lui non sparisce. Quindi lei pensava allo Zingaretti del PD. Esatto. Sì, PD. Va bene, Franco, grazie molte. Grazie mille. Grazie, buon ascolto e in bocca al lupo. Insomma, la festa dei 10 anni la faccia in estate, dai, che va bene uguale. Premio L'altro pianeta. E siamo per l'appunto arrivati al momento del premio L'altro pianeta, che questa settimana vogliamo conferire. In realtà un concorso di cui adesso ci parlerà Alberto Pieri, che è segretario generale FAST, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, che è responsabile di un concorso Giovani Talenti Italiani che sono stati premiati dalla Commissione Europea. Sentiamo per cosa, da lui stesso. Buongiorno Pieri. Buongiorno. Allora, questi giovani studenti non hanno avuto neanche loro una grande festa, purtroppo, perché il conferimento di questi premi è caduto proprio nel mezzo della emergenza coronavirus, ma insomma avevano partecipato a un concorso I Giovani e le Scienze 2020. Che cosa cercavate in questo concorso e chi si è aggiudicato il premio? Noi attraverso di lei lo vogliamo dare a tutti loro, sono un po' troppi, non potevamo averli tutti, no? La ringrazio dell'attenzione, comunque non è finita, perché adesso noi abbiamo fatto la premiazione in streaming, logicamente, con le scelte fatte dalla giuria, però adesso è il bello, perché vanno a usufruire, a partecipare ai grandi concorsi internazionali. Magari qualcuno è stato cancellato, tipo quello degli Stati Uniti rinviato l'anno prossimo, però a partire da agosto in poi, un po' in altri paesi ci sono delle avventure, delle iniziative, delle opportunità per questi giovani eccellenti. Cosa cerchiamo noi da loro? Cerchiamo che mettano al meglio la loro creatività, la capacità inventiva, che costruiscano delle cose che siano utili per loro stessi e per l'umanità, diciamo così. Quindi le proposte che hanno fatto ci piacciono tutte, e dire chi ha vinto è un po' difficile, perché i 30 finalisti, progetti finalisti con 71 ragazzi, sono il risultato di una selezione molto impegnativa fatta già all'interno delle scuole superiori, poi sottoposta a quelli che arrivano alla valutazione della giuria fatta da 43 professionisti di alto livello, anche ex vincitori degli anni che furono, che adesso lavorano in importanti strutture anche internazionali, e poi il giudizio finale, che è quello, questi 30 che sono arrivati a Milano, che hanno condiviso e devono spartirsi i bellissimi premi loro assegnati. Ok, quindi loro sono, questi ragazzi sono, diciamo, frutto di una grande selezione. Hanno presentato progetti più disparati, ho visto che vanno da progetti per l'ambiente ma anche per la sicurezza degli anziani, e poi parteciperanno con le loro idee a ulteriori concorsi internazionali. Certo, è così? Assolutamente. Per noi il punto fondamentale è la finale europea, che quest'anno si tiene a settembre a Salamanca in Spagna. Ne cito uno dei tre progetti che mandiamo, mi piace molto, perché un ragazzo del liceo Muzzi di Bari, che propone la bicicletta rana. L'ho letto, ma cos'è la bicicletta rana? Cos'è la bicicletta rana? Cosa fa? Praticamente è una bicicletta normale, lui l'ha dotata anche con dei sistemi di galleggiante, e con operazioni che durano molto poco, meno di un minuto, riesce a far sì che questa bicicletta vada anche sull'acqua, rimanga a galla e possa attraversare un corre su un lago, un fiume o cose di questo tipo, chiaramente non distante da oceani, però è molto bella per l'ingegnosità di un ragazzo. Oppure anche, lei citava per esempio l'attenzione per gli anziani, pensi a Caring Soul per esempio, fatto da dei ragazzi del Galilei di Erba. Che cos'è? Un anziano può avere problemi di deambulazione, di sicurezza, di come si muove quando va a fare una passeggiata. Attualmente si dotano gli anziani o di un bastone o di un collare con attaccato un meccanismo che comunica in caso di caduta, oppure qualcosa alla cintura. Questo non va bene perché evidenzia la loro disabilità, la loro difficoltà. Allora, i ragazzi cosa hanno fatto? Hanno inventato un kit, un piccolo chip che mettono sulla soletta delle scarpe, quindi l'anziano non mostra niente, però in caso di problemi, innanzitutto c'è il controllo di come deambula, eccetera, ma in caso di problemi l'allarme scatta da questa soletta delle scarpe, del tutto invisibile per gli esterni. È tutto molto bello. Oppure, se vuole, anche l'attenzione dei ragazzi alla qualità di ciò che si indossa, tipo Catch Lock, che sono dei ragazzi del Sobrero, una delle scuole di eccellenza, Casale Monferrato. Il cashmere o gli altri tessuti che compriamo sono autentici o sono taroccati? Hanno dimostrato, hanno costruito un metodo per definire e verificare la qualità del tessuto che uno compra, per esempio. Ecco, queste sono le cose belle che mi piacciono. Un ragazzo di Milano, del Bramante di Magenta, che ha proposto un sistema di logistica innovativo utilizzando la metropolitana di Milano per trasportare piccoli pacchi, fino a 1 milione di pacchi al giorno, con abbattimento della CO2, perché generalmente la distribuzione viene fatta attraverso furgoni o macchine, molto e molto significativa. Ecco, questo per dargli gli esempi di progetti belli, interessanti. Certo, no, ma ce ne sono davvero, davvero tanti, davvero belli, ed è molto bello che attraverso appunto questo concorso abbiano un trampolino, una possibilità di anche di uscire, di presentarli al pubblico, di progettarsi anche, no? Immaginare un futuro diverso, migliore, o con appunto ritrovati che loro stessi hanno costruito e che vengono poi presentati ad altri, altrimenti rimarrebbero confinati nelle loro scuole o nelle loro regioni a dir tanto. Infatti il bello dei riconoscimenti è il fatto che vanno tutti all'estero, quindi vanno a confrontarsi con ragazzi della loro età, con le loro idee, con il loro entusiasmo, con la loro fiducia nel futuro, con cui nascono magari delle opportunità e delle amicizie. Poi purtroppo qualcuno negli anni successivi magari va definitivamente all'estero e non torna. Abbiamo dei vincitori degli anni passati che per esempio lavorano al centro. Io speravo che andassero all'estero per confrontarsi, ma poi tornassero qui per produrre. Beh, abbiamo anche quelli che tornano per fortuna e hanno fatto delle brillanti carriere Settori di centri di ricerca in medie aziende o grandi aziende o anche in grandi strutture aziende internazionali. Comunque, avere anche degli amici nei più bei centri di ricerca del mondo è sempre un'opportunità per creare delle occasioni di trasferimento di conoscenze. La notizia dell'altro giorno, verissimo, il direttore del centro di ricerca di Pittsburgh che ha proposto, è un italiano, il cerotto che potrebbe essere la soluzione, potrebbe essere, non c'è ancora la certezza, per il coronavirus, credo che sia una buona opportunità. Ha avuto delle chance molto superiori in quel paese, perché no, un domani magari ad applicarlo in Italia e creare opportunità di lavoro in questo paese. Io vi fermo un secondo perché Alberto Pieri resti pure in linea, però c'è Leonardo che ha chiamato dalla provincia di Roma, mi pare voglia così fare un saluto importante ai genitori. Buongiorno Leonardo. Sì, buongiorno a voi. Gli ultimi proprio secondi, sia velocissimo. Sì, volevo fare un augurio per i 50 anni di matrimonio a mio padre e mia madre da parte nostra, Leonardo e Sara, Elena e Rolando. Siete tutti separati, quindi no, ciascuno distante dagli altri, è bello che sì. Diciamo così, la radio in questo momento vi fa un po' da ponte. Allora, Leonardo, auguri ai suoi genitori, Alberto Pieri, auguri a tutti gli studenti. Carlo, ci ritroviamo la settimana prossima, siamo arrivati alla fine. Assolutamente sì, ciao da Carlo Gabardini, ci sentiamo alla vigilia di Pasqua. Danilo Di Trani, Andrea Piano, Edoardo Lavezzari hanno lavorato a questo programma, Peter Bescapè in regia, da Laura Bettini. Buon ascolto e alla settimana prossima.